canta, canta, tale, tale, bene, bene, grillo, grillo, canta, el grillo. El grillo è buon cantore che tiene lungo verso. Tale, tale, bene, bene, grillo, grillo, canta, canta, tale, tale, bene, bene, grillo, grillo, canta, el grillo. El grillo è buon cantore, ma non fa con belli altri uccelli, con belli altri